Kelly Correct. Separa chi già soffre, lo tiene in un effetto insetto. Io tengo Gramsci nello zaino, la rete nella mano, la tecnica condivisa come sogno quotidiano. Finché il codice è aperto e la voce non è venduta, forse la rivoluzione è lenta, ma non è mai perduta.